माना बीतेगार बीतेगार 有没得实力还要去来当歌星，以为会捞几个颜值就在哪里做。 我也有一个 blue bomb اسمع اوني جيبوا شباب ومئات البنات نطلع الجنب للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopolitical. یادم زمانی نشسته بودم یه گوشه میدونستم که تو رفتی واسه همیشه هیچ وقت یادم نمیره اون حرفای آخر که میگفتی دوست دارم من صادق میکردم باورت همه یه حرفا دروغ بود ولی الان فهمیدم که فقط یه خواب بود خوابی که خیلی طول کشید نمیخواستم بیداشم چه کسی منو به این روز کشید موقعی که به هم گفتن هستی با یکی دیگه از خودم خواستم بگیره جونم حتما با خودم گفتی این کیه دیگه آره من ابله بودم دیوونه نمیدونستم که برات هستم یه عروسه که هر موقع خواستی بیا پیشم بکنی منو ناز با من که فقط همون ثانیه داشتی تو به منی ها چشم غمش بده E lei è Farinaz, Farinaz canta in Iran e ha un'introduzione per andare in questa parte del mondo, ma la cantante che ho scelto oggi si chiama Suzanne Feroz. Suzanne Feroz è una giovane donna che ha 23 anni, che come tutti i giovani dell'Afghanistan ha subito la guerra, è stata rifugiata con i suoi in Iran e in Pakistan durante la guerra in Afghanistan. Dopo aver fatto diversi mestieri, diciamo, durante la sua adolescenza, tornano con la famiglia in 2003 in Afghanistan e lei decide di fare del rap per parlare degli stupri, per parlare degli abusi, per parlare dell'immigrazione, della vita dei rifugiati, per parlare della vita delle donne, per raccontare com'è difficile di vivere come un'artista donna in questo paese che non lascia molto libertà alle donne, una scelta coraggiosa, una scelta non senza pericolo. E ascoltiamola, ci ho trovato due parole di lei con la traduzione in francese sopra, che comunque parla di sé. Il n'y a pas d'école ou de professeur. Non ci sono dei professori di rap. Il mio percorso che mi ha portato a fare rap. Quando vado sul palco faccio vedere che tutte le ragazze lo possono fare. Quando hanno parlato di me alla televisione ho ricevuto dei minacce, dei minacce dell'Iran, vogliono buttarmi fuori dall'Afghanistan, ma sono tornata qua perché comunque è il mio paese. E dunque lei continua, molto sostenuta dai suoi, dei suoi, in particolare del padre che fa anche il suo manager. Che dire di lei? Racconta come quando erano rifugiati in Afghanistan, siamo diventati gli afghani sporchi nelle fornaio, comunque tutti ci spingeva alla fine della coda, eravamo persi, eravamo speletti, delle balle, delle bombe sono piovute sulle nostre teste, le nostre raccolte sono state bruciate, i nostri alberi asciugati, avevamo sete e abbiamo bevuto le nostre lacrime, siamo andati in Europa per avere una vita migliore, ma siamo caduti nei campi vergognosi e sporchi e schifosi. Ho attraversato molte sofferenze quando sono stata rifugiata, e in particolare le donne hanno pagato molto la loro vita nei campi, e hanno pagato molto durante questa guerra. Per fare che? Adesso mi chiedo, ma perché abbiamo fatto questa guerra? Che ci ha portato? Sono anche sottoposto dei minacci, alcuni zii mi hanno riprovati di disonorare il loro nome. Ho ricevuto di telefonate molto inquietanti di uomini che non conosco, che mi dicono che sono una cattiva ragazza e che mi uccideranno. Ma che cosa ho fatto di male? Ma comunque sono determinate a seguire la mia passione nel rap. I miei genitori sono con me e io penso che posso decidere di seguire i miei sogni, e lo devo fare fino alla fine. Non rinuncerò mai a tutto quello finché al mio ultimo soffio. E l'ascoltiamo in questa canzone che racconta la vita nei campi di rifugiati, l'esilio e che significa di essere persi in un paese straniero in cui comunque non avevi scelta di andare. Fast. Ecco, Susanna Feroz, una giovane donna che fa del rap a Kabul. E l'altra parte della nostra trasmissione oggi è dedicata a un articolo uscito nel manifesto in dicembre in cui parla della visita di Wasila Tamslali, che era a Napoli per il Festival della Storia. E Wasila Tamslali, una storica femminista algerina, discute oggi della condizione delle donne, da sempre espressione di femminismo laico non disposto a fare concessioni al rival religioso che attraversa il mondo arabo e tantomeno a quei movimenti che vedono nell'Islam una possibilità strada per l'emancipazione. Wasila Tamslali, con il suo piglio deciso, contesta tutti coloro che vogliono ridurre la sua identità di donna algerina che vive in Occidente alla semplice e sola identità religiosa, quella musulmana. Ai suoi occhi l'Islam non può spiegare la pluralità delle sue identità e appartenenza, la sua lunga storia che attraversa il Novecento e le grandi esperienze e delusioni di quel secolo e di questi anni recenti. Wasila Tamslali, grazie al suo attivismo e ai suoi numerosi libri, che appunto uno dei quali ultimo uscito nel 2007 si chiama Un'educazione algerina, diventa una figura eminente del femminismo arabo. E in questo articolo lei è interrogata e intervistata, e la prima domanda è qual è la condizione delle donne durante le rivoluzioni nei paesi arabi. E lei risponde: quando si parla di rivoluzione araba, la questione femminile è centrale. Le donne sono sotto attacco in Egitto e in Tunisia, ma fortunatamente, se guardiamo alla Tunisia, sempre più persone stanno prendendo posizione contro gli attacchi alle donne, al loro stile di vita. Si tratta di qualcosa di molto positivo, tuttavia non possiamo concentrarsi solo sulle donne. Il problema è più ampio, è quello delle promesse mancate della rivoluzione, e in particolare tocca la questione della libertà. La gente non è scesa in piazza per avere gli islamici al potere. Le immagini che in questi giorni vengono dalla Siriana sono emblematiche a proposito. Nelle strade sono scese in piazza anche le donne con il velo. Il punto non è semplicemente la laicità, va ben oltre. Diversa è la situazione in Egitto. Qui siamo in periodo controrivoluzionario, anche se ci siamo arrivati attraverso un meccanismo democratico. Le elezioni, i partiti islamici non fanno politica, vogliono solo prendere il potere, essere egemoni. Ma questo alla fine farà sì che le persone prenderanno le distanze dai partiti islamici. Io credo che sarà la fine dell'utopia islamista. Il femminismo poi si chiede a lei: il femminismo ha oltre un secolo di storia nel mondo arabo, le donne hanno significativamente partecipato alle lotte di indipendenza e a volte formatissi gli altri postcoloniali hanno denunciato le ingiustizie e le inguaglianze di genere. Lei ha partecipato a diversi movimenti come il collettivo Maghreb Egualità, Uguaglianza, Egalità. Qual è attualmente lo stato del movimento femminista nel mondo arabo? Oggi le femministe stanno affrontando una grande prova. Non potevamo immaginare che la situazione sarebbe stata così grave. Dall'Egitto alla Tunisia le femministe sono costantemente chiamate a agire contro le dittature e gli islamici. E per accompagnarci su questo discorso di Taslima Vassila Tamsali, ho scelto una cantante che comunque non vi presento più o quasi più. Si tratta di Suan Massi. واش يحكي القلب الخالي quando sono le 17:43 nella Megaphonics di oggi. Stiamo parlando di dando voce a Wassila Tamsali, che come tante donne come noi criticano la religione come una pratica politica che ci priva di libertà a tutti, ma anche e soprattutto le donne. E una di quelle, dunque, Wassila Tamsali, è origina di l'Algeria e ha dato questa intervista al Manifesto a dicembre durante la sua visita a Napoli. Da una decina di anni sulla scena internazionale si è affermato il cosiddetto femminismo islamico, un movimento che rivendica diritti per le donne da una prospettiva religiosa, partendo dall'idea che i testi sacri siano portatori di un messaggio di uguaglianza di genere. Diverse donne musulmane che vivono in Oriente e in Occidente stanno proponendo nuove esegesi coraniche attente alla questione di genere e stanno rivendicando la riforma dei codici e di istituti patriarcali. Cosa pensa delle rivendicazioni di genere portate avanti a una cornice in una cornice religiosa? Risposta di Tamsali. Nel femminismo islamico non trovo niente di nuovo. Da 50 anni le femministe provano a riformare l'Islam. È stato un fallimento. Le femministe islamiche, uso questo termine anche se non mi piace, sono anche loro malgrado strumenti nelle mani degli islamici, che inevitabilmente finiscono per sostenere. Queste donne non potranno mai raggiungere il loro obiettivo. I movimenti islamici non vogliono riformarsi, se no che movimento islamici sarebbero? La loro base è la Sharia, e la Sharia è contro gli uomini e le donne. Non sarà il femminismo a cambiare l'Islam. Tuttavia, in questo ambito trovo interessante il movimento per l'uguaglianza Musavwa, nato in Malesia. Loro dicono: siamo musulmane e vogliamo libertà e diritti, ma non vogliamo cambiare le istituzioni islamiche come si propongono di fare gli organizzatori dei convegni internazionali di femminismo islamico organizzati in Spagna. صبرا حتى شي ما بان E si continua dunque la trasmissione con Wasila Tamsali, una figura eminente del femminismo arabo che è stata a Napoli a dicembre, e l'intervista continua così. Lei vive in Europa da anni, come le appare le condizioni delle donne musulmane in Occidente? Quali sono le principali sfide che queste donne devono affrontare? Su questo argomento ho scritto un libro di oltre 200 pagine. Le donne musulmane in Europa abbracciano l'Islam per differenziarsi dagli altri europei. È un meccanismo molto pericoloso. Basti pensare alla questione del velo, di cui è stata fatta una bandiera identitaria. È un atteggiamento pericoloso, secondo me. Allora, il suo libro di 2009 si chiama Una donna arrabbiata, lettera da Alger a europei désabusé, che sarebbe disincantati. E dunque lei è molto critica nei confronti di una certa parte dell'elite intellettuale occidentale. Ci può spiegare la sua posizione? Sì, gli europei sono incapaci di considerare che le questioni dei paesi del sud obbediscono alle stesse regole di intelligenza dei paesi del nord. Per esempio, le femministe occidentali possono lottare contro la Chiesa e il cristianesimo, ma noi non possiamo lottare contro l'Islam, perché ci dicono che l'Islam può liberare le donne. Quando si tratta del mondo musulmano, degli occidentali perdono la loro capacità di analisi. Una posizione che ci fa riflettere e che continueremo con nelle trasmissioni successive, dando altre possibilità, altre voci a molte donne che sono in lotta contro tutte le forme di religione. راني نحوس على حاجة تانية. Eh sì, due parole su Al-Masi, comunque, che lei è uscita da una famiglia modesta di melomani, scopre il shabby e poi il rock americano, il folk, la pop, la country e il fado portoghese, impara a suonare la chitarra e si inizia anche al flamenco. Nelle eventi degli anni 90 quando è stato messo il coprofuoco, non poteva fare una carriera di artista e Suad va con i suoi fuggono di Alger per andare in Kabylie. Lei fa le sue studi di urbanismo, diventa ingegnera e lavora per un cabinetto, per un studio di architettura, e poi inizia la sua carriera sul il palco a Alger, dentro un gruppo di hard rock, Atacor. Il gruppo registra una cassetta che incontra un grande successo. Suad lascia allora l'urbanismo per continuare a cantare. Poi piano piano è invitata al Festival Donne di Alger, al Cabaret Sauvage a Parigi, è notata, poi inizia diverse tournée e ha l'occasione di registrare tre album, e questo. Continuiamo, finiamo la trasmissione di oggi in compagnia di Suad Massi. E ascoltiamo Denia Wessem, che significa la terra. قلبي خايف E con su queste belle note della canzone di La Terra di Swan Massi, volevo salutare tutte le donne in lotta per la libertà e volevo salutare anche Vittoria, volevo ringraziare quelle che fanno dei squilli, grazie mille, sempre piacevole. E finirei questa trasmissione con un pezzo ormai conosciuto, ormai che fa parte dei classici. Si tratta di Wishbeck, questo pezzo che è stato composto da una trentina di donne musiciste di tutte le parti di intorno alla Mediterranea, quando chiedevano negli anni 95 mi sa, chiedevano la soppressione del codice della famiglia che stava in vigore già da 20 anni e che questo codice metteva la donna e le donne in posizione di subordinazione ai uomini, una posizione in cui loro non erano adulte e neanche diciamo cittadine o anche con diritti di tutti. Wishbeck, per concludere questa trasmissione, vi dico per la Megaphonics fra due settimane. ينسى الكلام ما كفاش لازم نقطع الميدان العدل ما يسواش كي غيب الميزان يا ناس لي بور تروبو تروبو دي اتواليتا نحاجيكم يا بنات عشرين سنة بال كانوا متفاهمين سرقوا حق نسا وخرجوا مهنيين داروا رايهم حسبونا من غفلين واش ردك يا قاضي واش ردك خف مني وفر كل موسم تاني ما فيه السم واش ردك يا قاضي واش ردك خف مني وفر Oh!